Buongiorno a tutti. Stamattina contro un palo mi si rotte il paraurti. Mentre sotto parte sto cammino, io po' più il pendolino. E mi sento Gigi D'Agostino. Vai maestro, dai un po' questo cammino. Stiamo tutti sul pendolino, il capotreno è Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O, mica pistacchi, stighecchi. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 3-3-3-6-4-6-7-6-6-2. Il 24 novembre del 1632 nasce Baruch Spinoza, filosofo olandese. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. Dai la missata, vai G. il lavoro e l'amore reso visibile. Cale Girvan. Este programa musical mental, ole, me gusta mucho más. E che cacho. Arriva, arriva, Gigi D'Agostino. Novembre del 1826 nasce Carlo Collodi, scrittore italiano. Dai, frate, mischiami sti dischi, va. Effetto Gigi D'Agostino. E dai, ma non lo senti questo come missa? E no. Cammino del Gigi D'Agostino. Questo sabato 25 novembre 2006 Gigi D'Agostino suona in Liguria, discoteca Disco Disco, Vado Ligure, Savona. Cinderella, my señorita. In the hot, puppy love, she's a witch. I

registrazione, regà. Vai col passo. Apri il suono. Questo ritmo è terzinato. Questo ritmo è sincopato. Sincopato, sincopato, sincopato, sincopato. Gigi D'Agostino al passo sincopato. Gigi D'Agostino al passo sincopato. Sincopato, sincopato, sincopato, sincopato, sincopato. E io sto preoccupato. Il cammino di Gigi D'Agostino. Non giochiamo. Sono un uomo diverso, sono un po' perso, ma questo è il mio universo. Precisa, sì. Mi credo, da sapere, in Sicilia e femmine sono come lupare. Il coraggioso muore una volta, il codardo 100 volte al giorno. Giovanni Falcone. Gli farò un'offerta che non può rifiutare, rifiutare. Gigi D'Agostino, un piccolo paese fuori dal mondo. La musica non dice nulla alla ragione. È un tipo di struttura al quale non si può dare una spiegazione. Anthony Burgess. Questo è il ritmo del cammino, sta suonando D'Agostino. Questo è il ritmo del cammino, regà, sta suonando D'Agostino. Questo è il ritmo del cammino, sta suonando Gigi D'Agostino. Questo è il ritmo del cammino, ma sta attento al comodino. Non giochiamo sul comodino. Stimato che sta suonando Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, musical mental, musical mental, musical mental. DJ con le palle.

Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Il 24 novembre del 1954 nasce Emir Kusturica, regista jugoslavo. Il cammino di Gigi D'Agostino, la radio a colori. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. È la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. È la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Se per te è la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Capito come? Lasciati andare, lasciati andare. Se per te è la prima volta, lasciati andare. Capito come? Capito come? Ovvio. Il cammino di Gigi D'Agostino. Spettacolo questo. La musica è la tua propria esperienza, i tuoi pensieri, la tua saggezza. Se non la vivi, non verrà mai fuori dal tuo strumento. Charlie Parker. Excuse me, Mr. DJ. I love music. Sabato 25 novembre 2006 Gigi D'Agostino suona alla discoteca Disco Disco. Vado Ligure, Savona. Se volete scrivermi 333-64-67-662. Se hai l'impulso, mi scrivi. Se no, desisti. Gigi D'Agostino, una musica infinita che racconta la vita.

questa meraviglia. Il cammino di Gigi D'Agostino, una musica infinita che racconta la vita. Che ti serve ormai, tormentarti per capire il mondo, farti soffiare. Ci sentiamo domani, grazie a tutti.